Radio 3 Lezioni di musica. Giorgio Cerasoli. Invenzioni e sinfonie a due e tre voci di Johann Sebastian Bach. Seconda parte. Un cordiale saluto da Giorgio Cerasoli, ancora una lezione di musica dedicata a Johann Sebastian Bach. Infatti, dopo le invenzioni che abbiamo ascoltato ieri, ci soffermiamo oggi sulle sinfonie Bach Werke Verzeichnis dal 787 al numero 801, ovvero quelle che generalmente gli allievi di pianoforte conoscono come invenzioni a tre voci. Dalla prefazione autografa alla raccolta, la copia ricordo è del 1723, che comprende sia le invenzioni che le sinfonie, abbiamo visto ieri come l'abilità di suonare correttamente e bene a tre parti obbligate sia considerata da Bach stesso come raggiungibile solo dopo ulteriori progressi. Se infatti suonare due sole parti musicali affidate rispettivamente alla mano destra e alla mano sinistra richiede già significative abilità in vista di quel modo di suonare cantabile che Bach pone come obiettivo finale dal punto di vista esecutivo, suonare a tre parti è decisamente più difficile. Siccome non siamo marziani con tre mani, dobbiamo infatti continuare ad arrangiarci soltanto con due mani e 10 dita in tutto. Anche oggi iniziamo ad ascoltare come Bach tratta le tre parti obbligate nella Sinfonia numero 1 in Do maggiore, caratterizzata direi dalla stessa semplicità di elementi che avevamo ieri visto nella Invenzio numero 1, sempre in Do maggiore. Thank you. Possiamo dire che gli artifici ai quali ricorre Bach per sviluppare le idee musicali in questo secondo gruppo di lavori non sono sostanzialmente diversi da quelli usati per le invenzioni. Anche qui abbiamo sentito, per esempio, l'uso rivoltato del materiale musicale, lo sviluppo di parti dello stesso, eccetera. Vorrei pertanto oggi soffermarmi su altri aspetti. Uno di questi è proprio l'incremento da due a tre parti e la chiarezza che l'esecuzione al clavicembalo consente di far raggiungere al dialogo tra tutte queste parti. Questo ci ricorda come la scrittura polifonica e contrappuntistica, che comunque è sottintesa in questi brani, questa scrittura non punti tanto alla prevalenza di una delle parti sulle altre, quanto invece al loro equilibrio. Come dire che anche nella fuga, e Bach ce ne offrirà l'esempio non solo nel clavicembalo ben temperato, ma anche in molti brani per organo e per lo stesso clavicembalo, il tema non è un elemento da mettere in evidenza a scapito delle altre voci, bensì una specie di pretesto per l'architettura polifonica. E vediamo nella Sinfonia numero 3, dal carattere più brillante, cosa succede intorno al tema che ascoltiamo all'inizio. La chiara destinazione tastieristica di questi brani non deve impedirci di pensare che gli stessi possono essere magari eseguiti da tre strumenti, flauto dolce, oboe, violino, viola, violoncello, fagotto, a seconda dell'estensione necessaria, sicché ogni esecutore possa seguire ed evidenziare tutte le inflessioni della propria parte. Qui abbiamo sentito veramente come una concertazione in un brano leggermente più brillante della Sinfonia numero 1, e questo ci lascia un spazio anche proprio all'idea della sinfonia, cioè del suonare assieme, quindi il termine che Bach adopererà in questa raccolta, mentre nella versione del quaderno per Wilhelm Friedemann Bach adoperava il termine fantasia. Ecco, trovo più appropriato proprio questo carattere concertante della musica, che non è tanto legato a una dimensione brillante o virtuosa della musica stessa, ma all'idea di fare musica insieme. Le sinfonie hanno le stesse tonalità d'impianto delle rispettive invenzioni a due voci, tant'è che una delle altre fonti manoscritte redatte da allievi dello stesso Bach fa seguire a ciascuna invenzione la corrispondente sinfonia nella medesima tonalità, che sono appunto 15. Prima di approfondire, seppur brevemente, questo punto, vediamo qual è il percorso armonico che Bach segue, e per far questo esaminiamo la Sinfonia numero 4, che affida alla voce superiore l'idea musicale che poi verrà sviluppata, mentre un semplice basso la sostiene in attesa che la stessa idea venga ripresa da altre voci. Qui ora entra di nuovo il tema nel basso nella tonalità di re minore, che era quella iniziale. Qui abbiamo un elemento di transizione. Che ci porta a relativo maggiore, fa maggiore. Ancora il tema alla voce acuta in fa maggiore. E ora al basso. Ora abbiamo una transizione dove subentra alla voce centrale un elemento cromatico. Ora torniamo nella tonalità della dominante al minore, quindi la minore. Modulazione. E siamo nella tonalità della sottodominante, quindi sol minore. minore e relativo maggiore. E qui torniamo nella tonalità della tonica, in re minore. E si inserisce questo tema cromatico alla voce acuta. Ora il cromatismo discende. Siamo evidentemente restati sempre nell'ambito di tonalità o regioni armoniche vicine alla tonalità d'impianto, ovvero non ci sono incursioni in tonalità lontane. Bach sceglie come tonalità d'impianto le 15 di uso più frequente, ovvero nell'ordine ascendente usato in questa raccolta: Do maggiore, Do minore, Re maggiore, Re minore, Mi bemolle maggiore, Mi maggiore, Mi minore, Fa maggiore, Fa minore, Sol maggiore, Sol minore, La maggiore, La minore, Si bemolle maggiore, Si minore. Sono le tonalità che i sistemi di accordatura dell'epoca consentivano di usare appieno, mantenendo quelle differenze di carattere fra una tonalità e l'altra alle quali non si riteneva vantaggioso rinunciare. L'allargamento dunque all'intera gamma delle 24 tonalità maggiori e minori che Bach opera nel clavicembalo ben temperato è dunque una sorta di parentesi. In fondo anche quell'opera come questa ha implicitamente un fine didattico nel campo della composizione, mostrando come in tutte le tonalità maggiori e minori si possa comporre e non più di tanto come si possa viceversa suonare in tutte queste tonalità. Tant'è che Bach non le adopererà, quelle più insolite, non le adopererà nelle restanti sue opere. Torniamo dunque alle sinfonie e nei restanti esempi, oltre a evidenziare sempre l'obiettivo di raggiungere questo modo cantabile di suonare un forte gusto della composizione, vediamo un ulteriore aspetto, ovvero quello dell'ornamentazione. Ho detto ieri che nella prima versione di questi lavori, nel quaderno per Wilhelm Friedemann Bach, che aveva 10 anni nel 1720, dove troviamo anche la spiegazione dei principali abbellimenti, e anche in questa versione del 1723 c'è un vistoso risparmio di segni scritti. Probabilmente Bach lasciava il compito di aggiungerne altri al figlio e agli allievi. Era prassi in questo periodo considerare la pagina scritta come una base su cui aggiungere in maniera opportuna abbellimenti e diminuzioni. E proprio nelle sinfonie, sulle sinfonie anzi, le fonti che ci sono pervenute ci danno importanti informazioni al riguardo. Perché per i vari brani ci sono delle versioni arricchite di abbellimenti e nel caso della sinfonia numero 5, Mi bemolle maggiore, questi abbellimenti sono stati successivamente aggiunti ma dalla mano dello stesso Bach. In questa sinfonia la voce inferiore, sentiremo, procede con una figurazione ritmica ostinata, una sorta di piccolo arpeggio, mentre le due voci superiori dialogano fra di loro con un ritmo puntato. Questa è la versione senza abbellimenti. E questa invece è la versione con gli abbellimenti dello stesso Bach. Questo tipo di risultato sonoro io credo che ci riporti alla ricchezza che caratterizza quel periodo barocco al quale riconduciamo anche lo stesso Bach, anche se Bach non lo esaurisce certo. soprattutto ci avvicina alla complessa ornamentazione che caratterizza la musica per clavicembalo dello stesso periodo in Francia, dove probabilmente la cosa si spiega, a mio avviso, col fatto che i vari livre de clavecin, quindi libri di clavicembalo, erano pubblicati e quindi andavano nelle mani di un pubblico al quale bisognava dare più informazioni possibili. Per Bach, nel caso delle invenzioni sinfonia, ma non solo, parliamo invece di copie, anche di belle copie che girano fra gli allievi, a loro Bach chiedeva di occuparsi dell'ornamentazione e, come abbiamo visto, in un caso fornisce loro un suggerimento autorevole. Dunque, il trovarci di fronte, negli altri casi, a un testo tutto sommato spoglio di abbellimenti non deve affatto trarci in inganno e autorizzarci a rimanere troppo alla lettera. Ancora sull'importanza dell'invenzione e in questo caso delle fantasie, dunque l'invenzione a tre voci come modello di composizione, un paio di esempi. Il primo è tratto dalla sinfonia numero 14 in si bemolle maggiore, che ci trasporta dall'atmosfera estremamente cantabile con cui si apre. Noi possiamo immaginare le due voci superiori che sentiamo entrare successivamente come affidate a due strumenti melodici o, perché no, anche a due cantanti. Poi questo carattere molto cantabile, che naturalmente non viene meno durante il brano, però osservando le due battute, anzi le tre battute finali, ci porta in un tipo di scrittura che è molto vicina a quella dell'Allemande. In effetti il tempo 4 quarti che viene adoperato da Bach in questa sinfonia in si bemolle maggiore è proprio quello dell'Allemande, 4 quarti. Dunque, la estrema modulabilità del carattere, ma anche del materiale, e proprio in questa invenzione, un po' prima della fine delle battute finali che vi ho fatto ascoltare, c'è una sorta di entrata ravvicinata delle voci, quasi si trattasse dello stretto di una fuga, ovvero di quel punto in cui il tema viene introdotto appunto in maniera ravvicinata, quasi a dare un senso del tempo che volge al finire, che dunque bisogna sbrigarsi. Abbiamo sentito queste voci, dunque, e l'altra voce, quella diciamo di centro, e la voce inferiore che entra e poi tarda per questo. Dunque ci dà un po' l'idea di come i più raffinati artifici contrapuntistici vengano adoperati da Bach e vengano un po' a inserirsi nell'idea anche di fantasia che ci ricordava il titolo usato per questi brani nel quaderno per Wilhelm Friedemann Bach. Un altro esempio, un ultimo esempio così dell'importanza come modello di composizione è dato dalla Sinfonia numero 15 che conclude la raccolta e rappresenta forse anche un punto di arrivo per le difficoltà tecniche che deve affrontare lo studente di clavicembalo, vista la scrittura abbastanza complessa, ricca di rapidi arpeggi che appunto caratterizzano questo brano. Ecco, arrivati qui al relativo maggiore, tanto per ritornare sul discorso del percorso armonico di questi brani, il brano ci dà un po' l'idea anche della difficoltà tecnica. Però cosa succede? Ci troviamo di fronte a degli scherzi prospettici, quasi fossimo di fronte a uno dei tanti trompe-l'œil che caratterizzavano la pittura del periodo barocco. Non solo, spesso e volentieri, di fronte a tanta attività delle dita, le voci restano in due. Quindi noi abbiamo sentito, di fatto per le battute che vi ho suonato, erano circa 14, abbiamo sentito soltanto 4 battute dove le voci sono in realtà 3, perché quando ci sono tutti questi arpeggi le voci sono in realtà 2. E rientrano tre. Ma non solo, c'è un caso in cui ci troviamo di fronte a un incastro curioso che nella velocità forse passa inosservato, ma se lo vediamo in dettaglio abbiamo la voce superiore che fa una serie di arpeggi ascendenti. E fin qua tutto bene. La voce inferiore fa lo stesso, ma a un certo punto inverte la rotta. Allora, questo fa sì che nell'insieme il risultato sia in velocità questo. Ecco, abbastanza complesso anche da suonare su uno strumento a tastiera, ma è questa naturalmente la situazione complessa che in qualche modo si determina. Se andiamo a vedere in dettaglio cosa succede, nella giusta posizione, nello sviluppo di queste voci che si inseguono in arpeggi, nel momento in cui la mano sinistra inverte la direzione, quindi comincia un arpeggio discendente, ecco, qui noi abbiamo per tre volte ripetuta la stessa coppia di note. Ovvero è il risultato delle voci che si incastrano salendo e scendendo. Una sorta di scherzo prospettico che Bach fa all'ascoltatore, perché naturalmente l'esecutore vede la partitura scritta e quindi si rende conto di quello che succede. Non è possibile naturalmente affrontare in maniera approfondita tutti i brani che compongono questa raccolta. Oggi ci siamo occupati delle 15 sinfonie, ovvero le invenzioni a tre voci di Johann Sebastian Bach, ma spero di avervi dato così qualche spunto di analisi, anche di approfondimento, che può migliorare la comprensione di queste importanti opere, non destinate soltanto chiaramente al settore didattico per strumentisti, ovvero per clavicembalisti o altri tastieristi o per i compositori, ma evidentemente pur rientrando nel settore didattico si consegnano alle più alte vette dell'arte barocca. Giorgio Cerasoli vi ringrazia per l'ascolto e vi dà l'appuntamento a una successiva lezione di musica. Radio 3 Lezioni di musica a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare le invenzioni a tre voci di Johann Sebastian Bach dal sito di Radio 3 cliccando su Classica Radio 3.